fortunato, ti ho cercato molto poco, considerando a fondo in fondo quanti cazzo siamo. Se non è fortuna questa, non so che cosa sia. Ho aperto la finestra con il sole che nasceva, per un caso assai curioso non ci si incrociava mai. Eppure sto paese ha solo 5 tabaccai. Ma pensarci a fondo adesso, i maligni so che dicono che ci incrociamo anche troppo spesso. Per un caso per un altro penso spesso a quella festa. Io non c'entravo niente, ma alla fine sono andato. Tu conoscevi tutti, e nonostante questo mi hai chiesto sottovoce di uccidere ogni suono. Per un caso del destino, era da 2 settimane che ogni volta che ero solo in qualche modo ti pensavo. Ti conoscevo appena, un po' facevo pena fantasticare tanto su una quasi sconosciuta. So, al mio paese c'è la vite, che è più bella che sul Belbo, perché qui non te l'aspetti. E allo stesso modo tu sei meglio della notte, che tolto molto in alto si sa sempre quando arriva. Per un caso misterioso, quel qualcosa che cercavi, proprio io che in ogni modo sono sempre inadeguato. Non so minimamente coltivare i fiori, mi trovo molto meglio quando uso il verderame. Per un caso che ci odia, qualsiasi cosa dici, adesso come adesso, sai, la sento così vuota. Un po' per abitudine, un po' per come suona, un po' perché per caso tu sei sempre ad una festa. Per un caso che capisco, dove il caso conta poco, in questo sgabuzzino non ci tocchiamo più. E non ha fatto male, se mi chiami non ci sono, e se rispondo maledico 100 volte la tua festa. Ed è squallido così, è squallido lo è stato. No, non conta il caso, perlomeno conta poco. È più sceno di così, è più sceno di sto stato. Ci può essere soltanto quello che tu hai detto dopo. Ed è splendido così, è splendido lo è stato. No, non conta il caso, perlomeno conta poco. Più sceno di così, più sceno di sto stato. Ci può essere soltanto quello che tu hai detto dopo.